America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I will release my tax returns when she releases her 33,000 emails that have been deleted. Beh, qualcuno di voi ricorderà questa dichiarazione di Donald Trump durante il dibattito con Hillary Clinton. Disse: rilascerò la mia dichiarazione dei redditi quando Hillary renderà pubbliche le migliaia di mail che ha occultato. Questo lo dico, mi prendo un impegno formale, lo dico contro il consiglio dei miei avvocati. Ebbene, non c'è stato bisogno di aspettare che Hillary rendesse note le sue migliaia di mail, perché il New York Times ha rivelato ieri un documento fiscale di Donald Trump del 1995 che lascia credere, secondo la ricostruzione del New York Times, che Donald Trump non abbia mai pagato le tasse per 18 anni. Ecco, com'è stato possibile? Beh, ve lo riassumo. Trump, secondo la dichiarazione fiscale ottenuta dal New York Times, tra l'altro gli è stata spedita per posta da qualcuno, quindi una fonte occulta, ha registrato quell'anno perdite per 916 milioni di dollari. E per come è strutturato il fisco americano, possono essere poi distribuite quelle perdite lungo un periodo di 18 anni. Quindi si tratta grosso modo di una deduzione di circa 50 milioni di dollari all'anno. Come mai ci sono state queste perdite quell'anno in particolare? Beh, perché ci sono stati degli investimenti andati male nei casinò di Atlantic City, tre casinò di Atlantic City, nell'Hotel Plaza, lo storico Hotel Plaza a Manhattan, e poi sempre in quell'anno si era avventurato, mi ricordo ancora, gli aerei erano Trump Air. Donald Trump aveva creato una linea aerea civile per il trasporto fra New York e Washington. Fu un fallimento e poi lo acquistò una delle altre grandi linee aeree americane. Oggi se lo contendono US Air e la Delta Airlines. Ecco, Trump non ha commentato su queste rivelazioni del New York Times, però lo staff è stato molto chiaro. Una dichiarazione dice: l'unica notizia qui è che un documento fiscale di oltre 20 anni fa è stato ottenuto illegalmente. Un'ulteriore dimostrazione che il New York Times, come i media dell'establishment in generale, sono un'estensione della campagna per Hillary Clinton, del Partito Democratico e dei loro interessi speciali globali. Beh, non avremo molto da attendere per parlare un po' di più di questo argomento, perché domani sera ci sarà il dibattito fra i due vicepresidenti, Tom Kaine e Mike Pence. È un dibattito che improvvisamente diventa più interessante di quello che potevamo aspettarci. Ma la copertina di oggi vorrei dedicarla a un altro argomento. Sentiamo. The United Nations has been forced to suspend aid convoys as a result of this outrage. Beh, avrete riconosciuto la voce. Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, è alla fine del suo mandato, lo chiuderà il 31 dicembre, a partire da mercoledì, dopodomani sarà in Italia per il suo ultimo viaggio ufficiale come capo delle Nazioni Unite nel nostro paese. Dunque dedico a lui la copertina della settimana e anche a uno dei temi forti che saranno discussi tra Ban Ki-moon e il presidente del Consiglio Matteo Renzi, e cioè come procedere lungo la strada dello sviluppo dell'Africa, come sarà possibile contenere le ondate di migrazione in arrivo nel nostro paese, soprattutto dal Nord Africa, ma anche da numerosi paesi del Sub-Sahara, a partire dal Ghana, alla Costa d'Avorio, per arrivare alla Somalia, all'Etiopia, al Kenya e molti altri. In tutto ci sono circa 900.000 africani residenti in Italia in questo momento. Per la fine di quest'anno il numero potrebbe aumentare di altri 150.000 nuovi immigrati rifugiati a seconda dei casi. Dunque il 2017 sarà l'anno in cui supereremo la soglia del milione di persone di origine africana che vivono stabilmente in Italia. Ecco, quanto potrà continuare questo flusso? E questo direi il tema forte. Perché? Beh, perché l'Europa tentenna nel lanciare un progetto di sviluppo su vasta scala e l'Italia naturalmente non vuole restare col cerino in mano, come si dice, visto che il primo approdo è sempre sul nostro territorio. E su questo il presidente del Consiglio Renzi è stato chiarissimo: se l'Europa non si muove, l'Italia in Africa politica andrà da sola. Dunque questi incontri italiani di Ban Ki-moon non saranno soltanto per un addio simbolico, ci sarà anche la parte, diciamo, sentimentale, ma in agenda abbiamo la questione libica, che ci riguarda molto più direttamente, la questione siriana, con l'estenuante lavoro dell'inviato speciale del segretario generale Stéphane de Mistura alle prese con due superpotenze che poi non riescono a dialogare, le sfide per l'ambiente, naturalmente la ratifica degli accordi per ridurre le emissioni è stata una delle cose più importanti della gestione Ban Ki-moon alle Nazioni Unite. Sul piano però dell'impatto di politica interna, devo dire che l'equazione immigrazione-sviluppo-Africa deve essere affrontata e impostata, secondo me, con assoluta priorità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, avendo dedicato la copertina di questa settimana a Ban Ki-moon e al fatto che chiuderà questo suo mandato alle Nazioni Unite, beh, dedico a lui la canzone del giorno dei Beatles, Hello, Goodbye. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!